avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Oggi riprendo un tema che mi è stato molto sollecitato dagli ascoltatori, che hanno una particolare sensibilità verso lo spionaggio industriale. Abbiamo più volte accennato del fatto che oggi la massima possibilità di espansione, di comunicazione, di interconnessione, di uso delle meraviglie fanta informatiche portano a un necessario e ahimè conseguente abbassamento delle proprie difese. Molto si è parlato rispetto alle possibilità di usare sistemi di spionaggio, di intrusione, di osservazione, di passaggio improprio di dati sensibili da un'industria, da un luogo in cui si produce pensiero, si producono idee, si hanno comunque dei dati importanti per la salvaguardia del proprio marchio, del proprio prodotto, della propria attività. Molto si è detto e molto ancora probabilmente può essere detto, anche perché, come già nelle precedenti trasmissioni in cui abbiamo trattato questo argomento, abbiamo considerato, invocando e impugnando un argomento a volte anche molto ambiguo e molto difficile alla fine da sostenere, che oltre alle difese, le controdifese di tipo informatico, quindi di tipo tecnologico, è molto importante una sorta di intelligence aziendale in cui si tenga sotto occhio e sotto controllo anche l'aspetto umano, anche la cosiddetta risorsa umana ha una sua parte. Analizzando il fenomeno Wikileaks al suo insorgere, con gli ospiti, alcuni dei quali riavremo questa mattina in studio, abbiamo osservato che in realtà non sarebbe esistito questo fenomeno se non ci fossero state le persone che volontariamente avessero prelevato, riversato, copiato dei dati dalle organizzazioni, dagli enti in cui lavoravano e l'avessero, per un'infinità di ragioni sulle quali non sto qui a sindacare, trasferito, messo nel luogo di raccolta e di diffusione di queste informazioni. Quindi 800240024, quanti questa mattina o per attività professionale o per propria personale timore di avere qualcosa che non funziona nella propria organizzazione o per una personale individuale curiosità volessero chiamare, questa mattina il problema è quello dello spionaggio industriale. Il mio lavoro copre tutti i settori industriali. Ho lavorato per un quarto delle 500 aziende più grandi del mondo. Ho finto di essere un banchiere. Ho finto di essere un investitore di capitali. Ho messo in piedi società di facciata per la ricerca di personale dirigente. In pratica sono una spia. Io chiamo i vostri dipendenti dicendo che sono di un'agenzia di collocamento e che ho un lavoro più remunerativo di quello che hanno e se vogliono incontrarmi per un colloquio. E quando il dirigente arriva non si rende conto che in realtà lo sto interrogando da parte della concorrenza, che non c'è nessun lavoro, che l'ufficio in cui siamo è stato affittato, che la foto della mia famiglia sulla scrivania è falsa e che tutto è soltanto un'elaborata messa in scena per ottenere informazioni per la concorrenza. Non mi sento in colpa. Insomma, uno si deve aspettare che ci siano persone come me in giro. Siamo predatori. Quella che abbiamo sentito è la testimonianza, tratta da un'intervista fatta appunto a un professionista americano, di un signore che dice che il suo mestiere è proprio quello di fare la spia industriale. Che metodologia usa? Ma si finge molte volte un cacciatore di teste, mette degli annunci, ricerca dei professionisti, cerca dei contatti sensibili con persone che comunque sono in possesso di particolari e interessanti dati che a lui interessa comunque trattare dal punto di vista di commercializzarli illegalmente. Ingegner Paolo Lezzi, buongiorno. Buongiorno. Paolo Lezzi, devo dire, non ha sentito parte di questo servizio, quindi glielo ho velocemente riassunto perché aveva un problema di cuffia. È amministratore delegato, Paolo Lezzi, lo ricorderete, è stato altre volte nostro ospite della Maglan Europe, che è la società, una delle società più importanti di intelligence e di difesa proprio, fornisce servizi ad aziende, anche a istituzioni di difesa dall'intrusione nei propri sistemi di sicurezza. C'è qualcosa da aggiungere rispetto all'ultima volta che siamo sentiti, soprattutto alla luce del clamore che ha fatto il caso Assange, rispetto alle cautele e gli attacchi che sono stati fatti dal punto di vista proprio dello spionaggio industriale? Sì, senza dubbio. Il caso WikiLeaks ha scatenato un'accelerazione nella numerosità degli attacchi. Se guardiamo anche la parte, diciamo, più spettacolare, l'attacco ai sistemi internet italiani, siamo passati da un migliaio di attacchi mese a 4.000 attacchi mese. Questo devo dire che era stato profetico lei, queste cose ce le aveva dette un paio di mesi fa, quando anche forse più, la prima volta che toccammo questo argomento. Esattamente, è stata proprio una propagazione, e si pensi anche agli ultimi casi di Anonymous, sicuramente questo ha dato, diciamo, la stura, se si può dire, o diciamo lo start di partenza a tutta una serie di persone che probabilmente prima stavano un po' più attento, un po' più nell'ombra. Le aziende, io adesso ho fatto dei numeri sulla parte spettacolare, ma le aziende sono costantemente, e le istituzioni sono costantemente attaccate anche in maniera non vista, cioè non nota. Ecco, non sempre poi ne esce notizia diffusa queste cose, che molti attacchi preferiscono rivolgersi a persone come voi che gli risolvono il problema piuttosto che pubblicizzarlo. È anche un elemento di debolezza verso l'esterno, un'azienda che ammette aver ricevuto un attacco alle proprie riservate banche dati. Senza dubbio, dal punto di vista dell'immagine e anche del valore economico, pensiamo a un'azienda quotata, cosa può determinare anche sul valore stesso dell'azienda la notizia del caso. La questione è che molto spesso le aziende non lo sanno nemmeno. Questa è la parte più grave e attuale dello spionaggio industriale e dell'aspetto computerizzato dello spionaggio industriale: la presenza continuativa di realtà esterne malevole all'azienda e non note, che continuamente prelevano informazioni. Ecco, se è possibile fare una sorta di valutazione bilanciata, parlo da estremo profano, mi sembra di aver capito e immaginare che l'attacco ai segreti industriali di un'azienda, alle sue aree riservate, può avvenire in due maniere. Una tecnologica, tecnica, viene scassinato e scardinato il sistema di protezione dei dati informatici. L'altra, molto più analogica, personale di quell'azienda, o personale comunque che ha avuto rapporti contigo con l'azienda, contatti. Il signore ha parlato prima, faceva delle finte offerte di lavoro ad alti dirigenti, al top management delle aziende, poi quando ci parli gli fai capire che in realtà il lavoro significa rimanere in quella stessa azienda. Ecco, come è ripartito il rischio tra queste due realtà? Ah, il rischio è totalmente comune, nel senso che il successo di un'iniziativa di spionaggio industriale computerizzato prevede all'origine il mix dei due aspetti, cioè il social engineering, quindi lo sfruttamento del rapporto umano per ottenere informazioni, e tutto l'aspetto, diciamo, digitale. Giustamente l'ha diviso in analogico e digitale. È un perfetto mix di queste due cose. L'attivazione magari è tramite un rapporto umano che permette di scardinare alcuni punti, dopo avviene, diciamo, l'installazione di tutto un sistema tecnologico che permette di essere continuamente presenti nell'azienda. Andiamo avanti, entriamo più nello specifico. Intanto, chi fosse interessato, chi abbia avuto qualche lampadina che improvvisamente si è accesa da quello che noi stiamo dicendo, abbiamo qui esperti che possono rispondere anche alle vostre domande. Il numero è 800240024. Angelo Iannone, buongiorno. Buongiorno. Angelo Iannone è anche un altro ospite conosciuto della nostra trasmissione, ex tenente colonnello dei ROS, oggi amministratore delegato della JDP Corporate Solutions, che è una società che fornisce appunto consulenza alle aziende in questo campo. È autore di Intelligence, un metodo per la ricerca della verità, edizione Eurilink, che fra l'altro viene presentato oggi a Milano. Angelo Iannone, tra le sue attività c'è anche quella di insegnare frodi occupazionali alla Sapienza, all'Università della Sapienza. Sì. Ci rientra il discorso che noi stiamo facendo. Noi siamo partiti da un servizio che raccontava di finte ricerche di personale specializzato. Ecco, quanto la frode occupazionale c'entra nello spionaggio industriale? Ma diciamo che lo spionaggio industriale è un aspetto, una componente del macro mondo delle frodi occupazionali, perché per frodi occupazionali, che è un'espressione di derivazione statunitense, coniata negli Stati Uniti dall'ACFE, l'associazione cosiddetta Fraud Examiner, comprende un po' tutti quegli illeciti che vengono commessi all'interno di organizzazioni complesse con finalità di profitto. Poi possono a loro volta essere illeciti che vengono commessi o che trovano convergenti gli interessi del singolo con gli interessi dell'azienda, e qui in Italia abbiamo una normativa ad hoc da questo punto di vista, che è il decreto legislativo 231, oppure può invece riguardare comportamenti infedeli di singoli rispetto all'azienda. E l'azienda che strumenti ha, quindi, per monitorare questa attività? Che poi naturalmente esistono delle garanzie anche dal punto di vista sindacale, adesso non voglio dire sindacale, che è un termine che non riguarda il top management, ma comunque non è che si può comunque tenere sotto controllo con altri sistemi informatici il dipendente, o si può, non lo so. Ma qui entriamo proprio nel campo minato, diciamo. Entriamo nel campo minato perché? Perché mentre negli ultimi anni, a partire si può dire un po' dal regime delle segnalazioni sospette, si è incrementata sempre di più in Italia una normativa, una legislazione che chiama ad una sorta di condivisione pubblico-privato nelle responsabilità di controllo, dall'altra però al privato, il privato continua ad essere considerato privato, per cui non si sono offerti strumenti adeguati per consentirgli di esercitare il pubblico controllo. Ha più strumenti, cioè, ci troviamo in una situazione paradossale molto spesso, in cui anche una grossa azienda si trova ad essere chiamata in campo come responsabilità per comportamenti dei propri dipendenti, e quindi come se gli venga rimproverato di non aver esercitato il controllo, e invece non gli si offre gli strumenti normativi adeguati per effettuare questo controllo, a differenza di molti paesi. Noi proprio leggevo ieri una cosa curiosissima, adesso c'è tutto il tema per esempio dell'antiriciclaggio con delle responsabilità anche in termini di segnalazione, una legislazione del 2007, e praticamente leggevo che un sito svizzero offriva dati su precedenti penali di oltre 300, in materia specifica riciclaggio, usura e così via, per oltre 300.000 italiani. Quindi cosa significa? Che si cerca di far entrare dalla finestra, in uno scenario globale, ciò che non può entrare dalla porta principale. Cioè uno si rivolge all'azienda svizzera, alle informazioni che non può ottenere in Italia, che poi è necessario avere per lui. Però è necessario ottenere, perché a un certo punto una banca dice: io come faccio a percepire la rischiosità di quel soggetto, di quella figura, se non ho invece nessuno strumento di verifica, nessuna possibilità di interscambio informativo con le istituzioni, che non venga immediatamente guardato con sospetto o con... No, questo è il punto. Ma era lei, Lezzi, che mi aveva detto che nella sua azienda fanno la macchia della verità per testare alcuni dipendenti. Sì. È un'accettazione volontaria, immagino. È un'accettazione volontaria. Lei l'ha fatta? Sì. E sì, come sì. Funziona? Li mettono gli elettrodi, fanno le domande? Fanno 6 domande e le rifanno in un altro modo, e vengono fatte varie volte, dura un po'. La macchina in sé non è solo la macchina, come anche qui, sì, tecnologia è tutta persona, la metodologia, un interrogatorio. È un interrogatorio vero e proprio, di fatto, e chi lo svolge, chi legge, deve essere in grado di analizzare. Però in sé, se uno si rifiutasse di farlo, già sarebbe una velata ammissione di colpevolezza, quindi non è che si può uscire e dire no, non lo fa. Perché le nostre persone, diciamo, firmano un qualcosa per cui si sottopongono volontariamente per tutto il tempo che lavorano in azienda a questo tipo di attività. È stressante sottoporsi a questo, onestamente, dal punto di vista personale, anche se non ha la coscienza pulita, uno pensa sempre chissà cosa potrebbero interpretare. No, diciamo che noi lavoriamo su due aspetti, cerchiamo anche di far capire profondamente qual è la missione della nostra azienda, e nel momento in cui uno la comprende lo fa volentieri. E se accade che la macchina dice che lei mente, cosa succede? È licenziato. Diciamo, si entra in un'area piuttosto pericolosa. Giuseppe Vaciago, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Vaciago è un avvocato penalista, si occupa appunto di questioni legali relative alle tecniche di controllo informatico su dipendenti e sulle attività da loro svolte. Rispetto a quello che abbiamo appena detto, ho voluto calcare la mano e portare avanti la provocazione. Cosa ne dice Vaciago? è tutto molto affascinante. Certamente in Italia sarebbe abbastanza difficile ipotizzare una macchina della verità. È vero quello che però diceva il dottor Iannone, cioè nel senso ci troviamo di fronte a una situazione un po' diciamo schizofrenica, per cui da un lato abbiamo il decreto legislativo 231 che impone un controllo sui dipendenti e quindi un'attività proattiva da parte della società, e dall'altro lato però abbiamo il garante della privacy che giustamente sotto alcuni aspetti tutela e forse anche per non arrivare a degli eccessi, mi permetto un'opinione personale come quello della macchina della verità, il lavoratore, e quindi sostanzialmente articoli 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori, grande legge fatta negli anni 70 che però dovrebbe anche... Poi non esisteva l'informatica in quegli anni. Ecco, esatto. Questo è il punto, che poi vengono pedissequamente ripresi... Cioè alludeva penso alle telecamere, quelle rozze che si mettevano per controllare le strade. La prima videosorveglianza, sì. E poi questa è la prima osservazione, quindi c'è una situazione schizofrenica sicuramente. Seconda osservazione, secondo stimolo è vero, è bellissimo quello che ho sentito all'inizio, quel servizio appunto sulle frodi occupazionali. È l'ultimo film di Michael Moore. Però in realtà sul capitalismo. Certe cose possono anche essere fatte attraverso l'utilizzo dei social network, cioè noi abbiamo casistiche ormai abbastanza diffuse in Italia, pensiamo al caso Saram Lesu, e in Inghilterra vabbè, ci sono stati casi anche famosi. Cioè lei dice fatto... tanto coglione il dipendente che le scrive da solo le cose sul social network, detto in termini comprensibili al vasto pubblico. Detto in termini appunto assolutamente più espliciti e più chiari. Bisogna quindi anche valutare che lo spionaggio si svolge in quel modo, ma il monitoraggio della rete oggi è un'attività che non è minimamente normata, se non dall'articolo 8 che però dello Statuto dei Lavoratori sempre, che però non è molto applicato e su cui io farei una riflessione. Cioè, andiamo al sodo, Vaciago, posso controllare la posta elettronica aziendale di un dipendente? Posso controllarla, ci sono state delle linee guida del Garante del 2007, è una risposta difficile da dare perché... E io tenderei a dire di sì se si seguono le direttive del Garante della Privacy, quindi massima attenzione. Seconda cosa, principio fondamentale è sempre il preavviso, cioè comunque la tu devi sapere che la tua casella aziendale, siccome uno strumento di lavoro che ti dà l'azienda, il telefono? Il telefono vale la stessa regola, tendenzialmente comunque è interessante vedere come... Cioè io ho un telefono aziendale, in teoria l'azienda che me lo dà può registrare le mie telefonate? In teoria no, in pratica si possono ipotizzare, come abbiamo sempre detto, delle eccezioni basate però sempre su esigenze che devono essere non soltanto produttive e organizzative. Paolo Lezzi fa no con la matematica. Lei dice che non è possibile. No, nel senso che la telefonata è sempre, cioè vale la legge anche sulle intercettazioni, eccetera. Non è che si può intercettare Angelo Iannone? No, vado ad integrare un po' quello che stava dicendo l'avvocato, cioè praticamente qui abbiamo un'altra schizofrenia italiana, l'avvocato poi mi potrà confermare quello che sto dicendo, e cioè si è elaborato nel tempo da parte della giurisprudenza il concetto dei controlli cosiddetti protettivi o difensivi, no? Per cui si è detto sostanzialmente, ma questo come... diciamo giurisprudenza penale, sì, se il controllo viene esercitato, per esempio ci si riferisce a quello della posta elettronica piuttosto che alla collocazione in certe posizioni di telecamere che non riguardano il controllo proprio sull'attività lavorativa, ma perché devono per esempio verificare se un dipendente sta rubando, se il controllo ha finalità protettive è lecito. Il problema è che questo lo dice magari una corte di Cassazione dopo 10 anni, no? Quando, nel frattempo quel dirigente magari che ha effettuato il controllo si è subito un procedimento penale eccetera eccetera, già sotto il ponte con e il carrello, poi mentre la Cassazione dice una cosa c'è il Garante della Privacy che ne dice, che dice una cosa leggermente diversa, quindi parla di una procedura aziendale che deve essere previamente condivisa con le rappresentanze sindacali eccetera eccetera eccetera. Poi, mentre accade questo c'è un mercato molto fiorente di alcuni oggettini di cui facciamo sentire qualche assaggio. Se cercate uno strumento incredibilmente potente, in grado di non destare alcun tipo di sospetto, utilizzate i nostri telefoni spia, che diventeranno il vostro occhio indiscreto, senza alcun limite di distanza. Il nostro cellulare spia dispone di una telecamera rotante e può essere chiamato sia da un PC che da un qualsiasi altro cellulare UMTS per avviare la trasmissione automatica dell'audio e del video catturati. L'aspetto è quello di un moderno cellulare, ma all'interno si nasconde un potente strumento di controllo. Federico Tonelli, responsabile divisione tecnica della ditta Spectadrom, che vende prodotti spia di sorveglianza, difesa elettronica, eccetera. Una battuta, poi darò ampio spazio dopo le informazioni della borsa. Oggettini del genere hanno un buon mercato, si vendono bene? Sì, buongiorno. Buongiorno Tonelli. A lei e a tutti i radioascoltatori. Confermo, si vendono molto bene. Non dovrei dirlo, ma pare che oggi lo sport nazionale per quanto riguarda questo paese sia un po' farsi i fatti degli altri. Diciamo che però c'è una premessa molto importante prima di addentrarsi nello specifico. Se è vero che rispetto a 20-25 anni fa il livello medio delle attrezzature di questo tipo è certamente cresciuto in termini di qualità tecnica e anche di accessibilità all'acquisto da parte del privato cittadino, va anche detto che i sistemi e le apparecchiature che permetterebbero, diciamo, di ottenere i migliori risultati con il minimo sforzo esistono, ma rimangono difficilmente accessibili da parte dei privati o anche semplicemente delle aziende che vogliono attuare operazioni di questo allora, tipo. Allora Federico Tonelli, ci fermiamo un istante per dare la linea alle informazioni della borsa, poi nella seconda parte della trasmissione entriamo nello specifico di quali sono poi gli oggetti, quali sarebbero gli oggetti che possibilmente potrebbe usare teoricamente un'azienda per tutelarsi, e ci dirà poi l'avvocato Vaciago quali sono proibiti, quali sono consentiti, ma penso siano più quelli proibiti che quelli consentiti. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Microspia GSM Quadriband, la più piccola sul mercato. Eccezionale microspia GSM Quadriband miniaturizzata per ambienti e autoveicoli. Sorveglianza audio remota a distanza illimitata. Il sistema permette di ascoltare da qualsiasi distanza ambienti o veicoli. Microfono da muro. Microfono ultrasensibile professionale ad elevatissima sensibilità per rivelare anche i più piccoli rumori. Corredato di cuffia stetoscopio biauricolare, captatore telefonico e microfono a spillo. ...800-24-0024, avete sentito, abbiamo aperto lo scrigno delle meraviglie, ciò che ognuno vorrebbe avere accanto, perché per farsi i fatti degli altri, per avere sicurezza matematica sulla fedeltà coniugale o amorosa o sentimentale, o anche semplicemente per essere tranquillo che le parti importanti del proprio lavoro che sono racchiuse in supporti informatici non prendano appunto la via che non dovrebbero prendere. È Federico Tonelli, con cui ci siamo interrotti per le informazioni dalla borsa, responsabile della divisione tecnica della ditta Spectadrom, che vende appunto prodotti spia di sorveglianza, difesa elettronica e via dicendo. Chi è il suo cliente tipo, Tonelli? Il privato o l'azienda? Abbiamo una divisione, diciamo, netta tra quelli che sono, perlomeno per quello che noi facciamo, i clienti istituzionali, quindi polizia giudiziaria, enti. Vabbè, quelli sono strumenti lavoro, è come la beretta che vende le pistole, sì. Uguale. Assolutamente sì. E il privato, quindi normale privato cittadino e azienda. Cioè, io il telefono con la telecamera brandeggiabile lo posso comprare e usarlo? Ecco, qui ci sono molte precisazioni da fare e bisogna entrare per forza di cose molto nel tecnico. Il caso estremamente eclatante del cosiddetto spy phone, quello che anche recentemente ha assurdo agli onori della cronaca, è emblematico, perché in realtà se questo telefono ha delle funzioni tali per cui io mi collego in remoto e controllo l'audio e il video, quindi non viene modificata in sostanza la funzionalità dell'apparecchio, direi che è perfettamente vendibile ed acquistabile. Se invece lo strumento viene modificato in maniera tale per cui vado a interferire sulla funzionalità e modifico il firmware interno, in modo tale che chi lo usa non si accorge che c'è questa modifica che è stata fatta e quindi io da lontano, da remoto, posso carpire informazioni a sua insaputa, questo è totalmente illegale. È come il tappino rosso sulle pistole finte, dovrei scriverci grande, telefono spia, attenzione. Sì, però non mi servirebbe a nulla. Perfettamente, perché è esattamente ciò che succede, la normativa penale italiana vieta la modifica, l'installazione di strumenti atti a intercettare e capire comunicazioni riservate, e lo Spyphone in questo caso fa proprio questo. Quindi... Sentiamo un attimo qualche ascoltatore che mi sembra che si sono molto interessati, soprattutto questa ultima parte. Dimitri da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io sono il direttore di un gruppo che si occupa di investigazioni intelligence per le aziende, quindi sono un investigatore privato, autorizzato. Ma lei sta dalla parte dei buoni o dei cattivi? Cioè aiuta a spiare o aiuta a trovare le spie? Facciamo tutte una premessa, due. Gli investigatori privati non spiano, tra l'altro... Vabbè, adesso usiamo un termine convenzionale. C'è un problema. Cioè, anche gli annoni alla pipa infilata nel taschino, mica per questo fa l'investigatore. Sì, ma c'è proprio un riferimento normativo, nel senso che se l'intercettazione la fa lei, Nicoletti, sono una spia, si lega dai 6 mesi ai 4 anni. Mm. Se la fa un investigatore privato o un ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è aggravata. Quindi assolutamente non possiamo fare intercettazioni ambientali. E ma allora come fate? Che strumenti avete? Lo strumento principale per l'investigatore privato è innanzitutto, sono due, l'investigazione e l'intelligence. L'investigazione si basa principalmente sull'osservazione dinamica, il cosiddetto tacco e suola, pedinamento, cioè... pedinamento, il classico pedinamento, quindi l'osservazione con l'impermeabile, gli occhiali, assolutamente, e col giornale bucato, perché questo è un classico. Ma al di là delle battute, diciamo, dell'iconografia dell'investigatore privato, l'osservazione dinamica è lo strumento per acquisire delle informazioni che sono utili poi al mandato che ci ha conferito il cliente. L'intelligence, che è legata all'investigazione, non è altro che, come dire, l'interpretazione dei dati che vengono acquisiti, per cui in base ai dati che, per esempio, lei ha fatto una bella trasmissione sui dati OSINT, Open Source of Intelligence, no? Le fonti aperte, io vado su Google, digito un nome e un cognome e ho delle informazioni. Aggregando quelle informazioni e dando un significato, questo può farlo chiunque abbia un po' di dimestichezza, certo, sì. Esattamente. Poi oggi con i social network, con Google che traccia tutti ogni passaggio che fa, è possibile tracciare la vita di una persona. Una volta feci un'ipotesi per il mio giornale, io partendo dalla targa di un'automobile arrivavo a sapere tutto della vita di una persona, perché chiedere una visura là ci può farlo chiunque, ho i dati e so dove abita, vado nella mappa di Google, mi guardo casa sua, mi faccio un giretto, comincio a vedere se è in un social network, vedo di chi è amico, cioè se ci perdo un po' di tempo, io ho provato a fare questo esperimento, è molto facile sapere tutto di una persona. Assolutamente, e lei pensi che anche i servizi di sicurezza dei nostri paesi hanno una attività OSINT molto rilevante. Ecco, quindi... ma se io comincio a dire, mi traccio i dipendenti di un'azienda, comincio a vedere se hanno un profilo su Facebook, comincio a osservare i profili dei vari dipendenti, comincio a avere un campione abbastanza specifico, gli annone. Cosa ne dici di questo? L'uso di queste fonti aperte è quanto può essere utile? Certo, da essere in mano con persone che sappiano usare i dati. Ma sì, infatti il problema oggi proprio dell'intelligence di cui la ricerca informativa è una fase, è radicalmente cambiato rispetto al passato, perché oggi, in passato la preziosità consisteva proprio nella capacità di ricercare informazioni. Oggi il problema è diverso, oggi siamo bombardati da informazioni, quindi la capacità vera consiste nel saper selezionare in tempi rapidi, perché c'è un problema anche di velocità di utilizzo del risultato dell'intelligence, ciò che è utile oggi, domani è carta straccia. E, dicevo, la capacità di selezionare le informazioni pertinenti, saperle valutare. Quindi soprattutto il valore aggiunto che può dare anche un investigatore privato che sia stato formato nella maniera più corretta è proprio la capacità di dare il giusto peso ad una informazione e saperla correlare con altra per arrivare a dare ad offrire delle conclusioni al suo committente. Ecco, volevo un attimo sentire due ascoltatori, proprio sotto forma di domanda veloce rispondono gli ospiti. Roberto da Modena, qual era il suo problema? Sì. L'altra faccia della medaglia è che io fino a 3 anni fa lavoravo per un'azienda che mi aveva dato il telefono aziendale, sì, come venditore, e questo telefono potevo usarlo solo per lavoro. Mi trattenevano dei soldi tutti i mesi dicendo che facevo delle telefonate personali e quindi dicevano che dovevano trattenermi una parte di soldi che dovevano rimborsarmi sul telefono. E allora, chiedendo la dimostrazione pratica, i tabulati, le telefonate e tutto, si mascheravano dietro il discorso della legge sulla privacy, che non potevano farmi vedere quello che però dovevo fidarmi, mi trattenevano dei soldi. nonostante che con la prova del 9 io per un mese i miei ospiti ridono, penso che gli abbiano sgrassato un po' di, gli abbiano sgrassato un po' di soldi, un po' pezzenti. Ecco, Paolo Lezza, amministratore delegato della Magellan Europa, mi diceva prima: costerebbe meno un'azienda dare due telefoni a un dipendente, due computer, uno fa quello che ti pare, l'altro però usalo solo per le vicende importanti per l'azienda. Cosa risponde al nostro ascoltatore? Ma sicuramente nel suo caso particolare, vabbè, ci troviamo di fronte a mezzucci di basso livello, quasi una pezzenteria per tirare su qualche spicciolo. Per pigliargli un po' di soldi. Infatti. Io però, riallacciandomi invece alla questione che si diceva prima di tutte le informazioni disponibili all'esterno, pensiamole non solo dal punto di vista, diciamo, dell'intelligence, quindi di un'investigazione dalla parte buona, ma pensiamo a tutto quello che può essere fatto con la disponibilità di queste informazioni per creare un attacco di spionaggio industriale computerizzato. Cioè. Io senza avvicinarmi nemmeno all'azienda, tramite Google posso accedere alla copia di tutti i siti web, tutto il materiale informatico eccetera che è stato prodotto. Una banalità è che sei stato messo in rete? Sì, io su qualsiasi sito vada aziendale ci sono tutta una serie di documenti pubblicati, PDF, a volte anche Excel. Però quelli Word, pubblicati eccetera. Sono documenti che l'azienda non ritiene rischiosi. Infatti, il contenuto del documento non è fondamentale. La questione è che dentro ai file ci sono una serie di dati, certo, i cosiddetti metadata. I metadati. Alcuni sono quelli che conosciamo tutti. Quando registriamo un pacchetto Office, chiede il nome e cognome dell'azienda, il nome della persona, eccetera. Gli altri sono memorizzati dal sistema senza che io me ne accorga neanche. Quindi mi memorizza su che directory è stata stampata, la user del PC, il software e la versione del software e l'aggiornamento del software che ho utilizzato, l'ultima stampante di rete utilizzata, eccetera, eccetera. Elementi utilissimi per entrare nel sistema. Se io faccio una raccolta di tutti i file presenti nel sito web, li analizzo con degli strumenti adeguati, ho già una e faccio una correlazione, ho già una mezza mappatura della rete interaziendale e quindi so costruire per quel PC, per quell'utente, magari un posso inviargli un file che sfrutti le vulnerabilità specifiche di quella macchina. Questo è molto interessante. Giuseppe Vaciago, ricordo, avvocato penalista che si occupa appunto di questioni legali legate alle tecniche di controllo informatico su dipendenti. Questo aspetto viene considerato nei contenziosi, appunto, nelle aziende, che in realtà ci sono dei metadati nei file normalmente messi a disposizione di tutti e qualcuno dovrebbe essere responsabile di questi dati. L'azienda ne è responsabile? Ma guardi, la situazione è abbastanza tragica in Italia. Negli Stati Uniti invece c'è una bellissima giurisprudenza, è molto ampia sui metadati, si discute appunto addirittura nei contratti. Pensate che appunto i metadati in un contratto anche piuttosto importante tra due società, e posso utilizzare il commento che magari è stato inserito all'interno di metadati di vario tipo per dimostrare insomma un intento truffaldino di una società rispetto ad un'altra, e si è creata una giurisprudenza molto ampia. Noi siamo un pochino più indietro. Nel metadato si possono anche risalire alle versioni precedenti, esatto, di un documento. Cioè, pensate quanto, e quindi si deve chiaramente capire dal punto di vista normativo, prima ancora che giurisprudenziale, qual è il tipo di utilizzo. E questa è l'arretratezza del nostro sistema. Si deve anche capire, se mi posso permettere, il concetto del social network piuttosto che i dati reperibili in rete, di cui poi abbiamo discusso e che avevo anticipato anch'io, se è davvero legittimo ritenere che io, è vero, mi sembra che giustamente sia detto, uno lo inserisce e si è responsabile, ma io penso che invece bisognerebbe fare una riflessione sulla percezione del concetto di riservatezza su un social network. Cioè è legittimo che io possa prelevare, possa monitorare un social network per motivi che vanno al di là di quelle che sono le finalità di quel social network? Ecco, fermiamoci solo un secondo, Giuseppe Vaciago, devo dare la linea al traffico, riprendiamo con lei proprio tra un istante dopo le informazioni appunto del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Microspia GSM con sensore per telefono fisso. Il dispositivo permette di intercettare, oltre alle conversazioni ambientali, anche quelle in entrata e in uscita, attive su linea telefonica fissa. Quando il telefono fisso effettua o riceve una chiamata, questa viene automaticamente trasmessa sul vostro cellulare, permettendovi di ascoltare la conversazione telefonica in corso. L'ascolto è di qualità audio veramente impareggiabile. STR Tel. dispositivo di monitoraggio ambientale molto sofisticato che permette di ascoltare discretamente nelle stanze dove è installato attraverso le normali linee telefoniche con qualsiasi tipo di telefono e da ogni parte del mondo. Il microfono di STR Tel catturerà qualsiasi rumore o dialogo prodotto in un ambiente di circa 12 metri quadri. Questo per ricordare che esiste anche il sistema hardware di controllo. Abbiamo visto, a questo punto abbiamo triplicato rispetto alla prima lettura le possibilità comunque di controllare, di essere controllati e di controllare chi eventualmente potrebbe comportarsi in maniera infedele all'interno di un'azienda. L'aspetto informatico, l'aspetto probabilmente umano, la risorsa umana, il suo atteggiamento, il suo modo di porsi rispetto alle sue responsabilità e le soluzioni hardware per sorvegliare e essere sorvegliati. Questo è uno dei problemi che assilla Giuliano dalla provincia di Roma. Giuliano, buongiorno. Cosa si domandava lei? Spenga la radio. Sì, forse è dalla provincia di Rovigo. Ah, comunque, di Rovigo, vabbè. Sì. Buongiorno a tutti. Niente, volevo fare solamente una domanda. Mi hanno detto, io non mi occupo di intercettazioni né tantomeno di investigazioni, ma se è vero che con la nuova legge sulla privacy che è stata adottata dallo Stato recentemente, gli investigatori privati e anche un privato cittadino non può più fare riprese video in pubblico a meno che le persone riprese non siano d'accordo e ti firmino una fra virgolette liberatoria. E perché lei è interessato a questa cosa? Non mi ha curiosità. Perché io faccio mi diletto a fare riprese video ogni tanto e allora questa cosa mi crea una situazione. Ma le fa per controllare, per spiare o per... No, assolutamente, per ridere e scherzare le faccio. Però, ma dove le va a fare? Volta... Nei boschetti, nei giardinetti o per strada? No, non ho questo tipo di perversione. No, non è perversione. Scusi, ma che... No, è che lei mi dice che vado a fare le riprese nei boschetti. Ma non è che è alludo, scherzo. Siccome lei è malizioso, sì, perché lei è malizioso, lo so... E allora, mi sorprende la domanda fatta al di fuori dello specifico interesse di un'azienda che è sorvegliata e di un sorvegliatore. Mi sono permesso di scherzare, non la prenda male. Per esempio, ci sono delle situazioni di spaccio, no? Ci sono delle. Ecco, lei va a filmare gli spacciatori. Ecco, bravo. Vede, nella mia malizia la porto a dire qual è la sua attività, sono interessato. Lei vede che nella sua città ci sono delle cose che secondo lei non sono sorvegliate, va a filmare quelli mentre spacciano la droga. Questa potrebbe essere anche una soluzione, poi ci sono tante altre soluzioni. Insomma, ma questo lo fa a che titolo? Di privato cittadino, di supporto, di guardia di supporto, di vigilante? Come privato cittadino. Angelo Iannone, guardi, ha davanti una persona che è stato per anni infiltrato, rischiando la vita in organizzazioni mafiose serie. Può farlo un privato cittadino? Pur essendo ovviamente l'intento assolutamente encomiabile, non lo può fare, perché significherebbe anche una sorta di usurpazione di pubbliche funzioni, no? Quindi potrebbe addirittura configurare. Il riferimento dell'ascoltatore era il provvedimento generale sulla videosorveglianza recentissima da parte del garante della privacy, che effettivamente ha cercato di porre un po' una disciplina a questa materia un po' giungla. Ecco, vede Giuliano che la mia malizia molte volte fa parte un po' dell'anzianità di mestiere. Se l'ho fatto altre domande volevo capire perché l'era interessato, poi, adesso ho capito. Scusami, ecco, c'è questa tendenza da molti cittadini di voler diciamo in qualche modo supportare e così via, però io dico facciamo attenzione perché molto spesso si creano intralci pericolosissimi alle indagini. Chiudiamo questa parentesi. Giuseppe Vaciago, avvocato penalista, ci avevamo interrotti prima, riprendiamo il filo del discorso. Ma lo riprendiamo appunto cercando di creare anche una linea di distinzione chiara su quello che si può fare e quello che non si può fare, ma non cerco di in una situazione. Sì, perché vedi Vaciago, come tocchiamo l'argomento, ovviamente vengono fuori delle forme artigianali autonome. Se poi questo le spalmiamo in tutte le attività, comincia a essere un po' confuso poi il campo. Infatti, voi d'accordissimo col dottor Iannone, mi posso permettere appunto il consiglio da avvocato è lo stesso, diciamo, di evitare di improvvisarsi su situazioni così importanti e delicate. Ma, questo quindi vale anche per le aziende che devono in qualche maniera salvaguardarsi. Ecco, non fate da voi. Ecco. facciamo un esempio sulla schizofrenia sempre. Noi abbiamo il provvedimento recente del Garante che si citava prima sulla videosorveglianza, e una recente sentenza della Cassazione che arriva a dire che videosorvegliare la cassiera che ruba è legittimo. Esatto. Come dire di no dal punto di vista, diciamo, di esigenze difensive, quindi siamo sulle esigenze difensive. È chiaro che dall'altro lato si pone il problema, che sembra essere una linea di discrimine che sta utilizzando appunto il Garante, che è quella del consenso. Il consenso preventivo, però, e quindi l'informativa e il consenso, sono un pochino in contraddizione con quella che è l'esigenza difensiva. Cioè, se io voglio intercettare una persona, se glielo in teoria posso intercettarla previo consenso. È chiaro che si perde il reato, perché il reato è composto dalla captazione occulta. Nel momento stesso in cui non è più occulta, non c'è più la finalità dell'intercettazione. Quindi, in sostanza, se dovessi dire la mia, dico: è chiaro che preavvisando si può far tutto, preavvisando forse però non si ottiene nulla. Roberto da Bologna, un attimo. Roberto, un altro avvocato lei, Roberto? Sì, qual è il suo problema? Dell'arma in congedo. Anche lei, ufficiale dell'arma in congedo. Esperienza, sì, non fosse spendibile. Saluto tutti, saluto lei, saluto gli ospiti presenti. Quello di cui mi accorgo, lavorando a un livello molto più, come dire, basso rispetto ai presenti, nel senso di aziende medio-piccole, soprattutto piccole, che non sono necessari strumenti informatici. Lavoriamo ristretti in Italia, tutti abbiamo gli stessi fornitori, le stesse mense, lo stesso postino, e c'è una propagazione di informazioni, una consapevolezza della loro sensibilità estrema da parte dei dipendenti. Lezzi, una battutissima proprio in 30 secondi, corrisponde alla realtà, voi che vi occupate a livello internazionale, che in Italia c'è una fattispecie molto particolare? No, senza dubbio l'Italia è molto particolare, e c'è una tendenza a fidarsi l'uno dell'altro fine eccessiva, ma fa parte del nostro carattere, e questo spesso e volentieri porta a essere sfruttata malissimamente. Grazie ai miei ospiti, ci sentiamo lunedì.